sé yo. Viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Un anno fa esattamente in questo giorno facemmo una puntata sulle streghe. Fu una fortunata e favolosa puntata in cui le ascoltatrici ci chiamarono dimostrando di avere possibilità di lanciare malefici, di predire il futuro. Alcune addirittura poi in una lunga coda con la trasmissione ci confessarono di essere capaci di volare di notte, di sapersi spostare, di uscire dal proprio corpo. Insomma, fu una puntata dedicata alla Befana, la donna più enigmatica e più carica di aspettative, allo stesso tempo di sensi negativi, brutta, vecchia, storpia, cattiva, ma allo stesso tempo colei che ci rende felici nei nostri momenti di abbandono allo spirito fanciullesco. Dicevo, un anno fa ci dedicammo all'irrazionale, alle donne considerate come veicolo di totale irrazionalità. La donna spaventa, la donna atterrisce, la donna perché è qualcosa che l'uomo non riesce a decifrare fino in fondo e quindi dice che è una strega e se può la brucia. Ma anche in talune circostanze, quando la donna si occupa razionalmente di quelle che sono le materie che per natura, per cultura, per chissà quale predestinazione pensiamo appartenere soltanto al dominio maschile, ugualmente segue lo stesso destino delle streghe. E quindi oggi vi parlerò, a differenza di un anno fa, di una donna che non ha affondato la ragione della sua distruzione fisica al fatto di essere una strega, ma di essere piuttosto una grande scienziata. Una scienziata di cui non si è mai parlato, si è parlato pochissimo, perché si produsse nella sua esistenza terrena nel IV secolo d.C. e stranamente, singolarmente, probabilmente visto che il caso non esiste, ci sono delle circostanze che questa mattina vorremmo riflettere, su cui vorremmo riflettere, se ne sta parlando molto ultimamente. Su lei è stato scritto un libro, su di lei è stata rappresentata una fortunatissima riduzione teatrale di un momento della sua esistenza. Di lei ne parlano giornali, tanto che l'idea di fare la trasmissione questa mattina mi è venuta prendendo uno di quei fogli di Free Press che si danno nelle metropolitane, si trovano abbandonati lette di quarta mano. Beh, tornando una sera a casa con la metropolitana, stazionato sul sedile dove mi sono seduto, ho trovato uno di questi giornaletti e al centro c'erano quattro pagine dedicate appunto a Ipazia. E questa mattina vi proponiamo la singolare storia della vita e della morte e del pensiero di Ipazia. Abbiamo al telefono l'autore di un poderoso libro su questa signora, su cui forse non tutti coloro che ascoltano, gran parte di quelli che ascoltano, non hanno nessuna notizia. Adriano Petta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Mi dica. Allora, Adriano Petta, che è uno storico della scienza, ha scritto per l'edizione di La Lepre Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo, assieme ad Antonino Colavito, sì, con prefazione di Margherita Hack. Sì. Ecco, lei è stato fra i primi a dare corpo alla memoria di Ipazia. Ci può sintetizzare chi fosse stata questa scienziata del IV secolo? Certo, guardi, Ipazia intanto è stata la scienziata con cui praticamente si è chiusa la scuola alessandrina, durata 8 secoli. Non è che la scuola abbia chiuso i battenti dietro una decisione, la bruciarono tutto, purtroppo. Bisogna dire quello che accadde, quindi l'oscurantismo cristiano, non si può definire in altro modo, fece in modo da far bruciare tutte le biblioteche, innanzitutto assieme poi alle chiese delle altre religioni, e Ipazia era lì, proprio in quel momento ebbe la sfortuna di avere davanti a sé grandi uomini politici, poi diventati santi, però voglio dire, lì si trattava, era una battaglia terribile, e lei era l'ultima rappresentante della scuola alessandrina, dove avevano studiato i più grandi geni della storia dell'umanità. Ecco, sembra singolare, riferendoci al IV secolo, già oggi ancora è un dato che desta, non dico stupore, ma attenzione, il fatto che una donna si applicasse alla scienza. Per quale ragione Ipazia era una scienziata? lei fu fortunata in quanto era figlia del matematico Teone che lavorava dentro alla biblioteca e al museion di Alessandria, quindi questo la facilitò. Non dimentichiamoci, era un'area che respirava in famiglia. Esattamente, il padre capì appena era lei ragazzina, capì subito che si trovava davanti a un genio e le dedicò un libro di matematica dicendo: ai pazzi, a mia figlia che sarà come me e più grande di me nello studio della matematica. In effetti fu sincero profeta di quello che fu il destino della figlia. Esattamente. Se oggi non ne staremmo a parlare. Per cosa si ricorda Ipazia? Di lei intanto una cosa, che oltre agli studi, Ipazia era filosofa, matematica, tutti i campi della scienza lei eccelleva, oltre che era una donna assennata, oltre tra le altre cose era bellissima, anche se non ebbe mai una storia d'amore perché erano così grave le cose che lei non aveva tempo per dedicarsi a una vita privata. Lo disse espressamente che il suo vero sposo era appunto la scienza, non la aveva scienza, tempo. La scienza, la ragione. E oltre a tutto questo, mentre noi sappiamo che il padre della scienza sperimentale è stato Galilei, però l'umanità c'ha anche una mamma della scienza sperimentale, che era Ipazia. Ipazia alla fine della giornata se ne andava nel suo laboratorio e con le sue manine costruiva degli strumenti. E quali sono gli strumenti che ancora ricordiamo che ebbero maternità, diciamo, da parte di Ipazia? Esatto, sicuro ce l'ho trasmesso tramite le lettere che Sinesio di Cirene le scriveva e sono rimaste, un bellissimo libro che è stato pubblicato dalla UTET qui in Italia, l'astrolabio è il più importante, lo strumento antesignano del sestante, l'aerometro e l'idroscopio. Questo è solo quello di cui noi siamo certi, chissà quante altre cose, perché in quella, nella scuola di Alessandria d'Egitto si faceva tutto, anche la scienza sperimentale, quindi lei è proprio un gigante. Il fatto che per 1600 anni il suo nome sia rimasto nascosto, io direi occultato ai più, perché la elite culturale di tutti i tempi lo sapeva, Giacomo Leopardi nella sua storia dell'astronomia le ha dedicato una pagina quando lui aveva 15 anni, attingendo le notizie alla biblioteca paterna di Recanati o andando a Napoli. Ecco, com'è finita Ipazia? Visto che la parte tragica della sua fine fa parte, diciamo, dell'alone leggendario per cui ne parliamo questa mattina, certo, oltre l'indiscutibile grande valore, certo, della scienziata. Certo, sicuramente, ecco, la fine così tragica ha impressionato gli artisti, gli scrittori, per il teatro, per adesso anche per il cinema, se ne parleremo dopo. E lei, ci fu un gruppo di parabolani, che era un gruppo di monaci violenti, monaci assassini, che erano al servizio proprio del patriarca e vescovo di Alessandria d'Egitto, Cirillo, il futuro poi San Cirillo, il quale... Perché è una figura importante comunque nella storia. È uno dei padri fondatori della Chiesa. Questo è lo strano, noi siamo abituati, ormai siamo nati con l'idea che questi cattivi pagani ammazzavano i cristiani, è accaduto anche l'incontro. E cosa fu fatto allora ai pazzi? Sì, la presero in mezzo alla strada, la portarono dentro alla cattedrale cristiana di Alessandria, che era il Cesareo, e mentre era ancora, le si lanciarono addosso con dei pezzi di conchiglia affilati. Pietro il Lettore, che era stato per 5 anni nel monastero della Nitria assieme al suo amico Cirillo, futuro San Cirillo, la prima cosa che ne fece, le cavò gli occhi con le mani e buttò gli occhi sull'altare di marmo e poi la lasciò in pasto ai suoi, il cuore glielo strapparono per ultimo, la fecero a pezzi, dopo misero tutti i pezzi del povero corpo di Ipazia dentro a dei sacchi, a un sacco di iuto, lo portarono per la città fino al Cinerone, dove c'era, si bruciava la spazzatura, e lo buttarono in mezzo alla spazzatura. Tutto questo fu fatto dentro alla cattedrale come morte simbolica, doveva servire da esempio affinché nessuno si dedicasse più alla scienza, alla matematica, ai numeri e soprattutto le donne, soprattutto lei. E da quel momento in poi scomparve e finì la scuola di Alessandria. Alessandria d'Egitto. Soltanto un allievo riuscì a fuggire in India, Paulisa, il quale scrisse un libro di matematica, portò con sé la matematica che è la fonte da cui penso che in parte abbiate attinto anche voi per il vostro libro e parte di tutti coloro che oggi mettono insieme e raccontano la storia di Ipazia. Certo, perché sono rimaste quattro storici, di cui tre contemporanei a Ipazia, quindi, ed erano tutti storici che hanno scritto storia ecclesiale, storici cristiani, quindi chi ha raccontato il tutto sono stati tre storici, più Damascio, ma Damascio ha scritto credo 50 o 100 anni dopo la sua morte. I contemporanei erano tutti storici della Chiesa, quindi la loro attendibilità possiamo sicuramente dire che era. Quindi quello che diciamo è certamente attestato e certificato da fonti, e le nostre conclusioni sono semplicemente la possibilità che abbiamo questa mattina di ricordarlo, attenendosi alle fonti certe, attenendosi a coloro che la ricordano e attenendosi soprattutto alle suggestioni che ha suscitato questa figura che singolarmente in questa particolare epoca, nel giro di un anno circa, improvvisamente se ne comincia a parlare. Il fatto che su Ipazia si stiano preparando un film, il fatto che in teatro se ne parli, il fatto che chiunque la senta nominare come una sorta di ricordo, significa che è il momento in cui è giusto che Ipazia riprenda voce. Non ascoltate quello che vi diranno. Vogliono che io sparisca nel nulla. Per questo diranno che me ne sono andata, che sono fuggita. Per questo diranno che nessuno ha visto quello che mi ha fatto, nessuno ha sentito. Non gli credete. Bruciano il mio corpo e i miei scritti perché non vogliono che resti nulla di me. Ma si sbagliano. Il pensiero non brucia. Ricordatevelo. Io vi vedo, amici miei, sono lì con voi, che correte veloci aggrappati ai vostri cavalli. La notte ci porterà al mare, liberi, il vento delle vele, una nave piena di libri, parole ai remi e numeri al timone, e l'ordine delle nostre teste a darci la rotta. Troveremo un posto per ricominciare. Un'altra alba ci aspetta. E non voltatevi mai indietro a vedere il mio corpo che brucia. Il pensiero non brucia. Io adesso voglio solo salire sul tetto della mia casa, come quando ero bambina, a guardare le stelle. Mio padre lassù, che mi aspetta. Lo so, mio padre mi aspetta. Immaginatevi Ipazia nel suo ultimo giorno, dal suo risveglio al mattino, l'uscita di casa per recarsi alla sua scuola, fino al momento in cui fu aggredita e uccisa nella maniera in cui ci è stato appena raccontato. La voce di Ipazia è di Francesca Bianco. Francesca Bianco, buongiorno. Buongiorno. Che è qui in studio con me. Francesca Bianco dà la voce a Ipazia nel Sogno di Ipazia, che è appunto una fortunata rappresentazione teatrale che è stata rappresentata al Teatro Lo Spazio a Roma fino a questi giorni, ricomincerà dal 4 al 14 febbraio. Ricordo la regia è di Carlo Emilio Lerici, il testo è di Massimo Vincenzi, le musiche sono di Francesco Verdinelli. Francesca Bianco ha trovato un particolare senso di partecipazione alla storia di Ipazia dandole la voce, dando il personaggio. Certo, perché è un personaggio interessantissimo e chiaramente è un personaggio che comunque appartiene a noi donne, nel senso che al di là del discorso filosofico, scientifico, è interessante questa figura perché come donna non poteva parlare, non poteva dire quello che pensava, per cui per me, poi soprattutto vedo il giudizio che hanno le persone in sala, no? Si sentono veramente commosse, per cui credo che sia una tematica che ha grande peso ancora adesso. Abbiamo in studio anche Stefano Moriggi, che conoscono gli ascoltatori di questa trasmissione, filosofo della scienza. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, questa mattina mi aiuterai anche te a ridare vita, ridare giustizia per quello che è necessario, ma a raccontare negli esatti termini chi era Ipazia e cosa rappresentò veramente. Al di là delle rappresentazioni, poi che devono naturalmente conferire un'emotività particolare, ma forse il personaggio merita di essere trattato anche con un briciolo di emotività. Il tema della libertà, che giusto appunto veniva adesso declinato, andrebbe anche, per essere compreso fino in fondo, ricontestualizzato all'interno di quella che noi oggi, con termini più moderni, chiameremmo la comunità scientifica dell'epoca. Ipazia è educata alle scienze matematiche, all'astronomia, poi si è detto era anche filosofa, no? Era la grande interprete del platonismo riletto da Plotino in quel d'Alessandria. Occorre precisare che questi saperi non erano giustapposti, come fosse questo, poi quell'altro e poi quell'altro, ma era un corpus di saperi che si tenevano l'uno nell'altro. E poi Ipazia incarnava, come un grande matematico ha precisato, quella insolita combinazione di interessi teorici e pratici che la ricerca scientifica portava avanti, che lo smembramento del suo corpo non ha fatto perdere nella storia delle idee, ma che è rinata nel Rinascimento, per l'appunto, e ha dato forma e mentalità anche a quella cultura da cui è nata la scienza moderna. Ecco, questo smembramento, questa damnatio memoriae, che arriva appunto alla dissoluzione anticipata anche della compattezza della figura umana. Cosa c'era veramente in Ipazia che poteva in quell'epoca, in quel periodo, in quel contesto essere così pericoloso? C'era la capacità di ragionare attraverso gli strumenti della scienza e della tecnica. Ipazia sapeva bene, perché in quella tradizione era cresciuta, che conoscere il mondo significava anche avvicinarsi a Dio. Il suo allievo, Sinesio di Cirene, scrive una bellissima, forse una delle più belle a mio parere, testimonianze che riportano il potere eversivo della conoscenza che lei incarnava. Scriveva: l'astronomia è una scienza di alta dignità, ma può servire anche come ascesa a qualcosa di più alto, verso l'ineffabile teologia. E senti che bello questo passo: giacché il beato corpo del cielo ha sotto di sé la materia, e il suo moto sembra essere ai sommi filosofi un'imitazione dell'intelletto. Più tu comprendi la natura, più ti avvicini a quel Dio che diversamente ti sfuggirebbe, anche con quelle macchine, con quegli strumenti come l'astrolabio. Astrolabio vuol dire prendere le stelle, quello strumento che ti consente di conoscere del cielo ciò che prima non conoscevi. Ecco, non c'è un po' il pericolo che Ipazia, nelle riletture contemporanee che se ne fanno, venga, come spesso accade, anche lievemente usata per ribadire l'antinomia, il contrasto per eccellenza fra razionalità e oscurantismo, fra scienza e religione? Lo possiamo riportare in termini, perché quello che mi fai capire, Ipazia non era una rappresentante fulgida dello spirito laico, una donna che credeva profondamente in Dio e riusciva a conciliare questo e l'altro. Sai, siamo in epoche in cui le contrapposizioni sono spiegazioni fin troppo facili dei contesti. La stessa streghe che tu citavi e di cui io tempo fa mi sono occupato sono state rilette da ideologie contrarie che ne hanno banalizzato la storia e la verità. Una, a mio parere, delle chiavi per interpretare la voce eversiva di Ipazia è proprio quella della scienza e della scienza applicata. Ti farò un esempio, proprio sulla scorta del matematico Klein, che diceva che la sua tradizione che la incarnava rinasce nella scienza moderna. Galileo, quando Galileo dice, da cattolico, anzi cattolicissimo, che la prospettiva copernicana, cioè il nuovo modo di rileggere la fabbrica dei cieli, sarebbe stata più utile anche per comprendere la Bibbia, pensa al famoso episodio del fermati o sole, grande episodio biblico su cui si sono confrontati all'epoca scienziati e teologi di diversa formazione. Beh, è questa tradizione di Ipazia, è l'idea che anche la scienza ti fornisce uno strumento intellettuale più sofisticato, e così sofisticato di avvicinarti ulteriormente a Dio e anche a quel Dio che detta le leggi del grande libro del mondo, cioè della natura. Melog 2.0. Nessuno. Nessuno. Non c'è più nessuno. Io ho camminato fin qui con la speranza di avere ancora qualcuno con cui parlare. Nemmeno insegnare, no, ora a me basterebbe parlare. Ma i miei amici più cari in questi giorni di terrore stanno sprangati in casa, come se la paura li potesse salvare. Per strada la gente ride della donna picchiata, della donna a cui urlano strega, e non sanno che poi toccherà agli uomini con pochi capelli, poi a quelli troppo grassi, poi a quelli con la pelle o troppo scura o troppo chiara. Ma poi a chi è diverso. Ci aspetta il regno dei folli, quando gli uomini si credono Dio, torri che diventano campanili, templi che diventano cattedrali. Questo è il regno dei folli. Bruceranno i libri, poi bruceranno le scuole, poi bruceranno le statue, poi bruceranno noi. Io lo so e ho provato ad urlarlo. ma le mie grida si sono tornate indietro come schiaffi di indifferenza. Io amo questo posto. Io amo i libri che ci sono qui. Io in questo posto ci sono cresciuta. Ma non basteranno i ricordi a proteggermi. Ipazia nella sua scuola si rende conto che dal sentire, dal sentore delle persone intorno che la sfuggono, che l'abbandonano, è arrivato per lei il momento fatale. Ipazia, ricordo, è Francesca Bianco. Il sogno di Ipazia è la rappresentazione teatrale a cui abbiamo tratto questi monologhi di Ipazia nell'ultimo giorno della sua vita. Ha scritto da Massimo Vincenzi, la regia di Carlo Emilio Lerici. Ipazia è isolata. Ipazia dice una cosa molto importante. Stefano Morigi, filosofo della scienza che studio con me: amo i miei libri. Amare i libri già significa creare per una donna di scienza un rapporto indissolubile con una testimonianza di sapere di cui lei si fa interprete personale, viscerale, con il suo corpo, con la sua carne, e sa già che questo le costerà molto caro. Sì, è un rapporto intimissimo che lei intrattiene con la scultura, con il libro, e nel quale misura anche la drammaticità della solitudine di chi sa che quando intraprende l'avventura della conoscenza può dover affrontare censure, istituzioni, autorità, ma lei da scienziata sa che non può riconoscere altra autorità se non quella che misura quotidianamente nella sua esperienza di ricerca. E dunque sa bene che nella scienza, come avrebbe detto quel Galileo che si citava prima come ideale testimone di questa spregiudicatezza della contemplazione, dell'applicazione della conoscenza, nella scienza non si decide per alzata di mano, quindi capita spesso di essere in minoranza, soprattutto quando si ha più ragione degli altri. Chiara Sartori, buongiorno. Buongiorno Gianluca, Nicoletti. Non voglio dire che chiamo un'Ipazia contemporanea, però mi piacerebbe che tu riflettessi su quello che stiamo facendo questa mattina. Chiara Sartori, ricordo che è direttrice di Scienza e Ambiente a Pordenone, è docente universitaria, biologa, quindi una donna che si è dedita alla scienza. Innanzitutto, tu avevi mai considerato questo precedente illustre della tua avventura personale? Sì, non vorrei essere presuntuosa nel paragonarmi a tale donna, che è stata sicuramente un faro per gli uomini anche, cioè per tutte le persone di scienza, ma sicuramente offre, soprattutto il brano che è stato letto precedentemente a questo mio intervento, offre una riflessione profondissima. Vorrei cominciare con il dirti che il sottotitolo di Scienza Arte Ambiente, questo festival a Pordenone della comunicazione scientifica, si inserisce benissimo, per un mondo di pace. Perché lo abbiamo inteso in questo senso? Perché si costruisce la pace anche attraverso la conoscenza. Credo che l'eredità di Ipazia sia tutta all'interno di questa. Quindi è sicuramente... Adesso potrei farti una domanda che potrebbe risultare banalissima, perlomeno datata. Ma la femminilità nel rapporto con la scienza, che cosa tu conosci personalmente? Sei una donna, sei scienziata, dirigi un festival di scienza, arte e ambiente, quindi parte già da un atteggiamento scientifico. Ha delle caratteristiche particolari, la senti in maniera particolare? Senti, anche se non è il caso solamente di parlarne in termini di massacri, accecamenti fatti con le conchiglie, ancora un senso di, perlomeno non dico perplessità, ma un attimo di disappunto o stranezza di fronte a una donna che si occupa di scienza, perché sono sempre poche, si contano sulle punte di dita, sono sempre delle eccezioni, una scienziata, vedi, è donna e scienziata, come se fosse incompatibile. In dubbio, penso che ancora oggi il rapporto tra la donna e la conoscenza e la ricerca, che poi alla fine è anche un po' l'accesso al potere, anche se non il potere esecutivo, comunque il potere della conoscenza è difficile. difficile, perché la donna biologicamente anche ha dei momenti in cui si deve occupare della cura della propria prole. Io personalmente ho due figli e quindi ho provato anche la difficoltà organizzativa, oltre alla difficoltà di accoglienza e accoglimento da parte dei colleghi maschi. Una donna deve con maggiore difficoltà essere nella ricerca, perché deve dimostrare di essere in grado di poterla fare, di poterla sostenere nel tempo. Questa è una dimensione che credo oggi attualmente sia ancora un limite che ci rende però anche molto più forti. Ecco, abbiamo... Sì, prego, prego, sì. Ho anche un pensiero che ho fatto e mi ritorna proprio in occasione di questa tua chiamata. Penso che il rapporto della donna con la ricerca e la scienza, ricerca anche non scientifica, comunque cioè non dedicata ad argomenti più strettamente scientifici, sia caratterizzata da una maggiore pregnanza, nel senso che è coinvolgente maggiormente, proprio perché l'impegno che viene richiesto è maggiore, e anche perché i percorsi che le donne fanno per arrivare alla ricerca a volte non sono dei percorsi accademicamente canonici, come invece è più facile, come invece può succedere. Gli è richiesta una maggiore capacità, chissà perché, di sapersi muovere nei già tortuosi meandri delle università, delle accademie, della ricerca scientifica, ma anche lo stesso sentimento pare che animasse nel IV secolo la stessa Ipazia. Aspettate, non sono più una ragazzina, non sono come voi, non posso pensare di attraversare la notte in sella a un cavallo bianco come se avessi 20 anni. La fatica mi pesa addosso, ma non sono sempre stata così, sapete? No, la vostra maestra è stata giovane, sì, sono stata giovane e dicono pure bella. Bellissima, mi ha scritto qualcuno, ma io non ci ho mai creduto fino in fondo. La vanità è una delle colpe che mi sono cadute addosso solo perché un Dio senza occhi può metterla tra i peccati. La vanità è solo un dolce pensiero che serve alle donne per passare le ore più buie. Anche la vostra maestra è stata vanitosa e me ne vanto. È una delle colpe che ora mi sputano addosso. E se è una colpa, sì, allora sono colpevole. Sentite quello che dicono. Mi rimproverano di girare per strada con voi senza vergogna. E di cosa dovrei vergognarmi? Dovrei vergognarmi di essere una donna? Adriano Petta, che è autore assieme a Antonino Colavito degli Ipazia, Vita e Sogni, una scienziata del IV secolo, sull'aspetto della bellezza di Ipazia si è molto favoleggiato, e pare sia uno dei motivi poi che le hanno causato una così violenta forma di annientamento. Era veramente molto bella, ci sono testimonianze di questo aspetto fisico di Ipazia. Guardi, tutti gli storici che citavo prima, compreso Sinesio di Cirene, non ci dimentichiamo che Sinesio di Cirene era uno dei suoi allievi preferiti e divenne poi vescovo di Tolemaide, tutte le fonti storiche dicono che era bellissima, aveva un aspetto, una figura, ma non soltanto l'aspetto, la figura, era il suo modo di essere assennato, giudizioso. Quando i politici della città si riunivano per fare un qualunque tipo di ricerca, un nuovo piano urbanistico, la chiamavano per avere un suo parere, per quanto era assennata, era veramente troppo grande per poterla lasciare. Quindi aveva anche una profonda, indiscutibile essenza di apprezzamento e di capacità di confezionare valori estetici, non soltanto nella sua persona, non soltanto nella bellezza del pensiero, ma anche viene chiamata come consulente per quella che oggi diremmo una scienza dell'ambiente, cioè dell'urbanistica, di creare dei luoghi favorevoli. Esatto, di qualunque cosa, proprio gli storici dicono questo, era così accorta nei suoi giudizi, così intelligente, così dolce, che chiunque affrontava un problema sociale, richiedeva un suo giudizio, quindi era un qualche cosa di più di una semplice scienziata. Stefano Morigi, su questo concetto dell'estetica legata alla brillantezza del pensiero. Sì, è molto legata alla cultura antica, non era solo una questione di consulenza estetica come noi oggi la potremmo intendere, ma era la competenza di chi, attraverso la sua scienza, aveva colto quelle armonie del mondo che le sue parole riflettevano, la sua consulenza poteva contribuire a ricreare anche nel pensare la città e i tempi e gli spazi che in quella città si potevano vivere, armonicamente, e quindi in quanto armonici erano belli. Melog 2.0. Riprendiamo la puntata alla Befana, che per tradizione a Melog è sempre dedicata alle donne, comunque fanno parlare di sé, le donne che comunque pagano caramente e profondamente il senso di essere donne, al di là dello stereotipo, al di là del luogo comune, al di là delle destinazioni primarie che secondo alcune chissà come ben concretizzate tradizioni debbano essere destinate. In particolare parliamo di Pazza, questa scienziata del IV secolo, bellissima, intelligentissima, profonda conoscitrice della scienza e degli strumenti che al suo tempo aveva per definire appunto la natura, che pagò caramente il fatto probabilmente di essere scienziata, perché fu uccisa anche in maniera molto brutale. Lo faccio con Stefano Morigi, filosofo della scienza, lo faccio con l'autore di un libro su Ipazia, che è uscito recentemente, che Adriano Petta, che insieme a Antonino Colavito ha scritto Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo, edizione La Lepre. Lo faccio soprattutto con la rivocazione fisica di Ipazia in studio, che Francesca Bianco, l'attrice che questa mattina per noi ridà voce a Ipazia, nel sogno di Ipazia, che è il racconto teatrale fatto dell'ultima giornata di Ipazia prima di essere uccisa. Ricordo che potrete anche seguirlo in teatro dal 4 al 14 febbraio al Teatro Lo Spazio a Roma. Ricordo che il sogno di Ipazia è un testo di Massimo Vincenzi, la regia è di Carlo Emilio Lerici e le musiche sono di Francesco Verdinelli. Stefano Morigi, è azzardato e per forza facente parte della nostra tendenza di riportare tutto l'epoca in cui viviamo, cercare parallelismi tra le contemporanee donne scienziate e la donna scienziata e pazza del IV secolo? Sai, opportunamente va e andrebbe tutto ricontestualizzato in contesti storici, culturali, scientifici diversi. Ma la drammatica storia, per esempio, per citarne una, di Rosalind Franklin nelle convulse ricerche per la conquista della doppia elica del DNA, potrebbe essere una opportuna riqualificazione. Le angherie che lei ha subito, è stata più volte sfruttata nei suoi studi, nelle sue ricerche. Poi non ha avuto neanche la fortuna, perché è stata pure sfortunata, di poter vedere come sarebbe andata a finire la storia. È una riqualificazione in termini contemporanei di logiche di inclusione e di esclusione, in cui, come ricordava anche prima Chiara Sartori, le donne sono spesso state vittime, anche se non ridurrei la questione a una contrapposizione di genere. Sì, però stiamo seguendo un pochino il filo perverso della fiction televisiva, in cui, esatto, già abbiamo creato un personaggio che ha avuto una stupenda espressione e poi è un po' anche toccato da quello che è stato il suo destino tragico, quindi ci sono tutti gli elementi per creare una nuova eroina del libero pensiero. Ma esattamente questo possiamo definire Ipazia, o soltanto questo? O è rischioso che diventi soltanto questo? Come ti dicevo all'inizio della trasmissione, il vero potere eversivo di Ipazia era la capacità di sfidare la conoscenza. Lei, che pur si muoveva nella traccia del sistema tolemaico dentro il quale aveva studiato, si era formata, l'aveva imparato attraverso il padre, pensava che Tolomeo non fosse un punto di arrivo, fosse un punto d'inizio. E questo è il potere eversivo di chi pratica la scienza e nella sua pratica, nel suo esercizio, non riconosce nessuna autorità. Questo è il vero potere. Soprattutto non ha destinazioni finali, c'è sempre poi una nuova pagina da aprire, da leggere, da scoprire. Beh, visto che stamattina la nostra caccia alle streghe dedicata alle donne scienziate. Un anno fa erano le stregone, le necromanti, le chiromanti. Questa Befana la dedichiamo alle scienziate, e quindi soltanto scienziate chiamiamo, almeno quelle che conosciamo, quelle che abbiamo modo di contattare velocemente in un giorno festivo. Chiara Ceci, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Naturalista, coordinatrice scientifica della mostra dedicata a Darwin, che attualmente è a Bari. Tu, in quanto donna scienziata, tu, qual è il tuo campo di studi innanzitutto specifico? Ma guarda, io mi sono laureata in scienze naturali con una tesi in ornitologia, quindi mi sono occupata di uccelli rapaci, quindi facevo campionamenti legati all'ambiente e agli adattamenti dei gufi e dei falchi, quindi una tesi molto, molto particolare. Non, tutti i miei compagni di lavoro erano normalmente uomini, stranamente, però... Poi dopo mi sono specializzata invece in comunicazione della scienza e in particolare appunto la storia e la filosofia. Ecco, essere l'unica donna che si occupava di uccelli rapaci insieme a tantissimi uomini ti ha fatto sentire, anche se non con lo spessore tragico della vita di Pazia, da subito che quella era una strada che comunque sarebbe stata difficile. Ma guarda, in realtà l'unica volta che ho sentito proprio il problema di essere donna è quando bisognava andare a campionare la notte, i rapaci notturni, e magari mi dicevano no, vabbè, magari non andare da sola lassù tutta la notte, quindi c'era tipo il mio fidanzato di allora che diceva no, ti accompagno, perché chissà mai che, mentre fossi stata un uomo, appunto, mi avrebbero tranquillamente lasciato andare nei boschi senza nessun problema. Abbiamo anche un'altra donna scienziata, Silvia Brunelli, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Silvia Brunelli, una biologa, esattamente non ti occupi di animali rapaci, di animali pericolosi, ma probabilmente di esseri viventi in qualche maniera, forse altrettanto interessanti. Sinceramente, proprio per quanto è possibile, sia possibile essere sinceri, tu lavori alla Bicocca e lavori al San Raffaele di Milano, quindi ti dividi fra due diverse attività. Ecco, ancora nella comunità scientifica è necessario sgomitare, ci sono difficoltà superiori, una donna che dice voglio fare la scienziata, faccio quello che normalmente fanno gli uomini, è uno dei tanti campi in cui esistono prevalenze di linea maschile, ma io penso che nel campo della scienza una donna debba avere ancora più difficoltà ad affermarsi. Oh sì, guarda, se guardi la popolazione dei laboratori, tu vedi che diciamo nel laboratorio che sta al bancone vedi tantissime donne, ma poi se guardi negli uffici di presidenza e direttore di dipartimento, vedi che man mano c'è una graduale diminuzione della percentuale di donne nella la classica storia della piramide, insomma, quindi trovi molta difficoltà a essere considerata alla pari, questo lo vedi soprattutto adesso nella facoltà dove io sono, a medicina, dove tradizionalmente diciamo le cariche sono date più agli uomini, quindi diciamo io donna biologa sono proprio considerata a bassa scala sociale, quindi è molto difficile anche se uno deve, insomma, ha dei buoni risultati. Indipendentemente diciamo dalla felice maniera di occuparsi di ricerca, di portare risultati, ci dimostra la dottoressa Silvia Brunelli che non siamo ai livelli dell'estirpazione delle pupille con conchiglie fratturate, ma siamo comunque ancora con un po' di strada da fare. Ma nel sogno di Pazia, nell'ultimo giorno di vita di Pazia, c'è un pezzo particolarmente interessante che un po' racchiude questo senso di disagio e di passaggio di una sorta di quasi predestinazione dell'essere donna, cosa significa essere donna, che Ipazia parla con la sua nutrice nell'ultimo giorno e gli dà dei segnali molto precisi di quello che è, quello che sarà e quello che è ancora tutt'oggi il significato di essere donna. Mia cara bambina, mia dolce Pazia, mi diceva così la mia vecchia nutrice. Tuo padre è un uomo pieno di ingegno ed è un uomo buono, ma è pur sempre un uomo e non sa che cosa serve a una bambina, cosa serve ad una donna. Nel tuo mondo, Pazia, tieni sempre un posto per il tuo cuore. Noi donne non siamo deboli, siamo solo diverse. Rideva dicendomi questo. Anche fra le stelle ci sono stelle diverse, stelle donna. Io l'ho imparato crescendo. Ho visto stelle dalla luce più tenue, dal corpo più sottile, stelle che sembravano sempre sul punto di spegnersi, sempre sul punto di essere spinte giù dal cielo, dalle altre stelle più grandi. Invece, passano gli anni, soffia il vento dello spazio a spazzare via la loro luce, ma loro sono ancora lì e sembrano sempre più belle, anno dopo anno, e saranno lì per sempre. Come noi, come voi, come me. Grazie a Francesca Bianco che ha prestato corpo, voce e anima a Ipazia, grazie a Stefano Morigi, grazie a Adriano Petta, grazie a tutti quelli che questa mattina, nel giorno che normalmente dedichiamo alle donne massacrate per il fatto di essere donna, cioè il giorno della Befana, è dedicato appunto a una donna scienziata, ai pazzi. Speriamo, se ci sarà mai un'altra occasione, un altro anno, di non trovare altre categorie per cui, per parlare di donne il giorno della Befana, dobbiamo necessariamente trovare donne che vengono fatte a pezzi. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.